partigiano di questa guerra, dove eroi non ce ne sono più, ma io non mi nascondo mai, perché se morirò la pace eterna tu sarai. E stella io sarò, dunque la sera tu sarai. Io marinaio e tu sulla mia vela soffierai. E se sarà di cera il viso, tu sarai un ventaglio. Se freddo aspetterò, se freddo aspetterò te prima. Sono arrivato io.